maligni, me l'hanno detto, ma dice di no, assolutamente non lo fa più usare. Diciamo che all'inizio era un divertimento, poi se ci pensavi bene ti facevi un esame di coscienza, prendere in giro una persona malata non è il massimo, giusto no, anche perché ogni malato di mente c'è la sua fissazione, lui c'è la fissazione del sesso, specialmente il sesso sbagliato, quindi ti puoi immaginare. E purtroppo il padre me l'ha detto, per me è una disgrazia, perché se no avrebbe avuto, il padre era malato e l'ha letto, ha detto per me mio figlio questo giorno è stato una disgrazia, perché se no avrebbe avuto un impero qua come ce l'ha defrattito, perché lui qua va via di danni. Sono tutti fratelli, una volta l'ha messa a rispondere al telefono, mentre si è messa a fare il gioco della carta a un cliente, dice manco quello li posso far fare. Comunque ha fatto la storia nella frequenza, è morto, sì sì, morto Giacomino, quello lì era quella di Gnogno, non era quella della notte. Alessandro era quella di Gnogno, conoscevo anch'io, lui non lo so se è morto, comunque cosa di tassi l'avevamo all'arco, mi dava una moto carrozzella, faceva trasporti con una moto carrozzella, boh. Ma quella della notte è morto, Giacomino, non so se tu lo conosci, certo, il padre era Macalle. Ciao, ci sentiamo. 144, 75, anche te controcambiati al 100, dai. Ma qua attento. Cappa, controcambiati anche da parte mia, da Antonio Fogo. Ce la risentiamo tutte quante alle prossime, noi siamo sempre qua sul 21, quando vuoi entrare ci fa sempre piacere. Occhio rum. Ciao, ci sentiamo, no? Stiamo attento. Ce la risentiamo, dai, ci ha fatto molto piacere risentire un'altra persona dopo tanto tempo, ok, ce la risentiamo tutte le prossimine, allora già c'è ragione Sara, ma che ne so, ma se no per lui girare anche quello lì, fa girare, comunque mi ha fatto piacere stasera, no già, anche ieri sera, ci vuole veramente, sono contento, scappa, già buonanotte già allora dai, ce la risentiamo. Buonanotte, dire a tuo padre che l'abbiamo aspettato, che non si è fatto sentire. Adesso riaccendo dopo, così mi sono dimenticato. Ci sentiamo, buonanotte. Ciao, buonanotte.